la situazione acá es troppo molto precaria, nel senso di tutto, stiamo male, non abbiamo neanche un solo con che cubrirsi, nos danno una specie di, non lo so, uno fazzoletto, che cubrimo con il solo dei fazzoletti, non abbiamo niente di quello. La medicina, quando è necessario, per qualche cosa si danno, no? Quello non può dire niente. Però perché non è successo niente grave. A terra c'era una signora che l'hanno portata in ospedale, l'hanno rapportato, poi quella signora ha le due gambe, ha l'erisipela, non lo so come acá in italiano si chiamerà quello che sono come ferite le gambe, no? Lei non può camminare, ha bisogno di un assistente veramente, un'assistenza medica continua. E qua non la facciamo, abbiamo sia le spalle rotte, portarla avanti, indietro, al bagno, alla parte della doccia, farla. Su bisogno, a portarla che prenda la terapia, le portiamo qua, là, veramente se bisogna o una sedia di ruota o un paio di stampelle, qua non le danno niente, no, le soluzionano neanche sul problema che ha lei. Quello che più dispiace per quella signora non è una bambina più di 50 anni, per umanità dovevano mandarla a casa a Roma, vita lei. Che cosa fa un'anziana là nel paese sola con tutta la famiglia qua? Uno 5 stelle a quello bagno nostro, lo fa schifo. Io mai in vita mia mi ha seduto in uno di quello che si vede alla turca che si chiama, no? Io non lo so, non posso neanche farmi bisogno perché il sedere mio è traumatizzato. Ogni volta che vado a sedermi lì non posso fare niente. Perché piegarsi di una forma terribile, inumano, quello inumano. E un'altra cosa, mi segue? Allora, un'altra cosa che quando ti portano qua ti dicono vai a una casa d'accoglienza, questo non è una casa d'accoglienza, questo è una cosa terrorificante, perché ti tolgono anche una penna per scrivere alla gente o per scrivere un numero di telefono. Non riceviamo file, il file sempre rotto, il file non si riceve, quando si riceve una cosa che non si capisce niente di quello che c'è scritto perché a me mi è successo. L'unica cosa sono quelle che abbiamo il telefono, però senza la camera, no? Senza la telecamera. Bene, però non abbiamo neanche una penna con che scrivere, non ce la lasciano entrare un pettine per tenersi, no? Un deodorante, no? Niente cosa di aseo, te la danno un goccino se c'hai, io sempre non ho neanche con che farmi una doccia. Le mie amiche qua se mi danno qualcosa, no, una mutanda, non mi hanno dato una mutanda comunque, per una bambina di 10 anni io ho i ben 60 anni, non sono una vecchia rimbambita, né un'anziana, però perché io mi tengo, cada una ve cosa fa, cioè dipende del paese, ad esempio questo va per noi che siamo dell'America siamo più unite, noi, una che sono africane stanno in un posto giù, nell'ultimo posto fanno loro, perché fanno la propria lingua, la propria abitudine. E poi sono le russe, le cinesi, albanese. Alcuni si uniamo, sì, esempio albanese e americani siamo uniti. Le zingare pure è unita, musulmani, sì. L'unica differenza è con l'africana perché loro proprio non parlano niente italiano. E le cinesi sono altre che le tengono da parte. La situazione è caotica, anche la zanzara, viene la zanzara, non abbiamo aria, niente. Eravamo 36, sì. Hanno detto un giorno che eravamo 36, però è uscita una che dopo quasi due mesi la tengono qua. Quasi tre mesi la tenevano qua e l'ha mandato via. No, credo che è rimasta in Italia, perché neanche lei sapeva bene com'era la situazione. Poi una compagna mia della stanza, la che mangiava qua, l'hanno fatto andare, neanche con il boccone, nell'ultimo boccone noi ce l'hanno fatto dare, perché lei era che mangiava qua, l'hanno visto, l'hanno alzato del posto, l'hanno mandato senza niente, non sentito, ci abbiamo comunicato con lei, lei ha detto guarda che faccio la vita di straniera nel mio paese, perché ormai tanti anni non conosco nessuno, faccio la barbona, lei sta con la strada. E così l'hanno mandata, senza tregua, senza farle prendere un straccio. Il problema nostro non è che lo mandino a uno nel paese, va bene, lo mandano al paese perché è il nostro paese. Il problema è come lo mandano, è inflamato, è distrutto. Non sembra un che viene d'Italia o d'Europa, sembra che viene di qualche terribile. Sì, a volte fanno proteste, sempre quando il giorno che sono arrivata io giovedì, mercoledì sera o il 28 sera, quando arrivo da qua, aveva un sacco di pacca, vuota la porta, era una che decía come, dopo che ti danno mezzogiornino che ti danno la pasta. Io non sono stato di mangiare pasta, per quale proteste così, oppure perché non ti danno il tapone, non ti danno niente, la carta igienica manca. Allora ti racconto la mia. Io sono quasi 30 anni che sono in Italia, i due figli studiano, sono regolare, io stavo regolare, poi la separazione del mio marito. Poi ho avuto un problema, sono andata in carcere per deficienti, perché quello non le metto la colpa a nessuno, me la do io per deficienti, perché io ho l'abitudine di aiutare a tutto il mondo e quello mi ha portato solo discussioni e problemi. E mi portarono in carcere, ho pagato un anno, poi mi hanno mandato fuori, mi hanno condannato per 4 anni e mezzo, 5 anni e 4 mesi, dei quali quando hanno fatto, perché parlo di 13 anni fa. E poi quando è venuto il condono mi hanno tolto 3 anni, poi l'anno che stava dentro era 4, meno los 3 mesi, meno ho pagato 9, 11 mesi, qualcosa così in casa di mia figlia. E poi guarda, se in Italia, se tu vai a fare un documento e non ce l'hai lavoro, non ti danno il soggiorno. Se non tieni soggiorno non ti danno lavoro, io non lo so come sistema questa cosa, perché se ti danno il soggiorno, e tu vai tranquillamente, senza paura, senza che nessuno ti urli, senza che nessuno ti sgridi o ti guardi con una faccia di cosa che la moralmente ti distruggono. Io la polizia, la questura, le chiamo la casa del terrore, e mi hanno mandato in questura per presentarmi. Mi sono presentata anche con il cane, perché io non pensavo a niente. E io sono stata tanto tempo che io non faccio mai un altro reato, niente. Ho fatto tutto lo che ho potuto, ho vivuto in grazia di Dio, pensando che per i miei figli stanno. Casualmente, per no, ha detto, appena come lavoro bene, pago un avvocato e possibilmente questa cosa esce, va via. Mi hanno portato qua e guarda, adesso saranno stato un abuso terribile, perché mi hanno preso, mi hanno mandato qua in aereo a pagare il biglietto di aereo per me, mi arrangio io da sola. Era una doc sitter quando mi hanno preso, pensando che esto veramente era una casa de acogimiento. Me trovo que esto es un lager, qua es un lager, esto no es una casa de acogimiento, una casa de acogimiento que no te echan una pena y un peso de carta para escribir, aunque tu mínimo pensiero en el pie profundo. Y pues el lager, que la encárcele, tú che la hay tu estanza, che la hay la tu estanza, la tua comodità, hay el baño, si fai la doccia. Ogni 2 o 3 giorni cambiano il letto regolare, il dottore c'è, non c'entra niente, né niente con le carceri, questo è il peggio di un carcere, hai il foglio, hai la pena, fai la tua domanda, te la rispondono. Io sono già di tanti anni, sono 10-12 anni che sono stato. È una grande differenza, le carceri non sono così, per lo meno di dove io sono, sì, l'ho trovato un po' cambiata, perché prima era più tranquillo, adesso hanno diventato un po' più dura, però comunque la pena e la carta non te la fanno mancare, la carta igienica, la roba, lavare la roba, niente. Il medico, ti portano a fare gli analisi, e qua niente, quando viene, se ti arriva la morte, ti arriva, sono le compagne che stanno tutte con il fiato sospeso per non andare a lasciare i suoi figli sabotati. C'è una che ha un figlio anche in comunità, però lei si è venuta da carcere direttamente qua, hanno preso l'abitudine di prendere le ragazze, la prende le carcere e la porta direttamente in queste lager. Non la lasciano un giorno, come che avranno fatto, chi lo sa che, una che ha fatto qualche rifiuto, che ha fatto qualche spazio, non è che la fine del mondo, no. Troppo pesante per essere una casa di accoglienza, no. No tiene niente de casa de acogimiento, pensaba que era una cosa diversa, donde se estaba más o menos tranquilo. No, ya no tiene ni la televisión, cuando la televisión no funciona. No, es una cosa que piato de poi, no con esto, cuando te mandan novia, si en chavata te mandan en chavate. Te mandan, el problema no es que te mandan novia, el problema es que te están arriba a tu país como la peña delincuente del mundo. Es terrible, bueno, está ahí en Italia, tanto tiempo en Italia y va como una pesante, te mandan un día con él, como que fuera estado la delincuente, pido delincuente del mundo. no, una cosa impressionante, non lo so. Questo è una cosa dei diritti umani, lo sai? Questo sembra come un orologio che non si ferma mai, i diritti umani calpestati, come diceva Einstein, siamo una razza umana, non importa il colore della pelle. Certo. Certo.